una sola mangia mangio, dai. Guarda a vedere Gianluca, se mi ascolti anche qua su 10, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Manza. Gianluca ormai sta con la dolce. 50. Mi ha la bolla di Mavi, ciao. Vabbè. Oh. Vedete c'è Giuseppe. Giuseppe c'è, tu c'è. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Antonio, buonasera. A Giuseppe. Ciao Giuseppe, e anche se mi ci muovi la gira, cosa vai? Ma ciò, avevo paranoia, e questioni, spiegherò un po' Antonio Verticale, che mi gioco un cazzo mezzo afferrato giù all'ufficio collocamento, no, ho capito. Bello casino, non è troppo piedi ancora la gira. Negativo, niente, no. Stamattina a Giumacca non attaccavo quel cazzo specie di vice direttore che c'era dentro il coso, dentro il cazzo per l'ufficio. Uia, uia, e cura lui, era troppo cannuta, ragazzi, io mi sono ammazzente di travaglio, ammazzente. Non so più da che parte girarmi, da che parte muovermi. Ma ha sbagliato. Me ne hanno fatte fare le domande, eh? Se io non vengo chiamato, scusa, ecco. Abbiamo appena assunto, un mese fa abbiamo assunto 10 giardinieri. Sì, ma me lo stai dicendo adesso, perché il numero di cellulare, il numero di casa, non te l'ho dato per caso per farmi anche un colpo di telefono, no? Cazzo, abbia anche la cosa di almeno le cose di, come si dice, le credere di farmi un colpo di telefono, cazzo, ma se ve ne sbattete le palle, allora ditelo chiaro, cazzo, scusate. Tu immaginati, guarda, un mio ex collega, perché quando c'è stato un passaggio da un'azienda all'altra, questa multinazionale spagnola, praticamente lui non ha passato il colloquio, e quindi l'hanno messo in disoccupazione speciale, in disoccupazione da novembre, mi pare, ottobre, ha preso ottobre, novembre, a praticamente l'80% dello stipendio lordo. Questa disoccupazione che gli hanno dato adesso, quindi ha preso ottobre, novembre, la disoccupazione, quindi l'80% dello stipendio, è andato tutto bene. Quella di dicembre, da 1000, perché abbiamo uno stipendio alto noi, quindi mi pare che prendesse disoccupazione 1150 euro, a dicembre, questa di gennaio praticamente che gli hanno dato, che poi equivale a quella di dicembre, gli hanno dato 245 euro, 145 euro, e c'è scritto nel mandato che praticamente ci sono 540 euro di trattenute ILOR, altri soldi IRPEF, conguaglio di fine anno, 145 euro, ISO a famiglia. Adesso io dico una cosa, ma porca puttana, se è un aiuto sociale quello che le stanno dando, perché l'azienda gli ha versato i contributi per tanti anni e quindi l'INPS deve contribuire a far rientrare questi contributi pagati al lavoratore, quindi a quello che è disoccupazione speciale, come cazzo fai tu a prenderle, a farle un conguaglio su una disoccupazione speciale? Fammi capire, io non capisco tu. perché dice che ha percepito i 3 mesi di disoccupazione speciale praticamente senza nessuna trattenuta. Cattivi di trattenuti a fine anno, quando dice che viene veramente eliminato. Sono una massa delinquente. Tutto va dietro, tutte contare, vado a contare, cazzo, ehi, cazzo, certo quello, cazzo, ma viene la vergogna veramente. Soprattutto programmi televisivi. c'è una gelosia, cazzo, all'infinito qua. Allora, è così, cioè sono cose brutte da dire, purtroppo, però la realtà è quella, lui deve apprezzare i fatti suoi, non è che può attaccare un premier, anche se quello che sta facendo non è il massimo, ma c'è poco da fare nel governo italiano, è un magna magna battuti, quindi è inutile che continuano ad attaccarlo e continuano a farlo. E quelli di sinistra cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto quelli di sinistra? Hanno fatto dei giuretti, quindi alla fin fine se tu fai uno più uno fa sempre due, sia in Sardegna che in continente. Tanto me, il nostro carissimo presidente è sempre telecomandato da lui, quindi da Berlusconi. I comandi li prende da Roma, la Sardegna viene comandata da Roma e ha ragione Gabino Sari a dire che noi siamo un'isola di imbecilli, capito? Perché non abbiamo altro che il comando generale e Roma e basta, noi non possiamo fare niente senza chiedere l'autorizzazione a Roma. E questo ti sembra una cosa giusta a te. Nella parte anche vero, noi siamo una pedina e basta, siamo solo pedine. Tranquillo, già mi ha fatto. faccio la separazione, diamo la bocca, sta tranquilla, e forse ne caccio più di me, di rami. Però ha preso una portocca tra la mazza da baseball. Allora Giuseppe, non c'è detto con me? Ciao Domenico, anche a te un abbraccio grande, saluta moglie e figli, ci sentiamo. che salutano a te, buona carica, buon tutto a te e famiglia, e ci riascolta se non fa più tardi alle prossime. Io ho approfitto lo stesso per andare a caricare, ciao Sacchi, a Domenico e ci risentiamo, dai Domenico, tutto a stasera se coincide. Ciao a te, ciao anche a Giuseppe. Ciao Marchè, ciao Claudio, buona carica, buon tutto, ce la raccontiamo più tardi oppure alle prossime, dai, ciao ciao. Ma tu che non vuoi nulla, no? Mia cosa cancerogena. E il pesce lo mangi. E come fai a pescare lì? A seguire. Tanto, ma il pesce che vendono qua è tutta di quella costa lì. Perché pescano i pescatori produttori se vanno lì all'arco. C'è un po' di un casino, ma lo sai. Se uno va al mercato e si compra il pesce, non sa che cosa sta mangiando. No, no, viene controllato, aspetta un attimo. Cioè, prima arrivi la pescheria, c'è la cooperativa col veterinario che viene controllato il pesce. E poi viene messo la vendita. Se non fate un controllo, non può passare la vendita. Ma tu, meglio di me non lo sa nessuno, l'ho visto io, con i miei occhi. I pescherecci arrivando, scaricandolo sui mezzi e partendo. Non si può fare. Guarda che io andavo a prendermi i granculi per pescare la mattina presto, i pescherecci li vedevo arrivare. Se volevo mi prendevo il pesce fresco ancora vivo, ce n'era ancora vivo, fatti un conto. Chiaro. Non si può fare però, allora. Non lo so. E comunque, chi si fida? Chiappa. Io so che è così, viene controllato il pesce, prima di metterlo in vendita. So che lo prende una cooperativa prima di darlo a te, a venderlo. Addirittura lo devi portare tu. Loro te lo certificano e tu lo devi vendere poi. È una cosa del genere. Sì, come c'è anche un'altra cosa. Ma per carità. Sono arruinato di tutto per chi sta a metà. Ah, li ha arruinato. I cormorani che si tuffano per prendere i pesci, salti pieni di cose, catrava. Grazie. Come li hanno fatti vedere il televisore di un inquinamento che c'era stato anni fa, in continente, cavolo, c'erano tutti i cormorani con il catrame attaccato. Alleluia. Aia, speriamo che li fermino queste cose qua. Fare ce la devo. Cosa tu? Stiamo distruggendo l'ambiente. L'ambiente il turismo, tutto quanto. Allora. Distruggendo l'ambiente il turismo, non ci vede, non c'è da vedere, io vedo per vedere alcune cose e poi mi scaricate una roba lì. Oppa. Che cosa viene a fare nulla. Vabbè. Grazie a te. Ho rovinato le cose più belle del mondo. Piatto Miaggia. Sono. Detto che hanno rovinato le cose più belle del mondo. Eccolo sì. Magari più tra le più belle, eh? Scappa. Non è niente. Quello che hanno fatto non è assolutamente giusto. E speriamo che non si verificano più queste cose. Comunque lì nel porto, a Porto Torre, purtroppo non si può pescare. Io mi sono messo le mani in testa, cioè quando sono andato l'altro giorno, ho detto, mamma mia. Se sporti, peschi la mattina. Sì, allora. Cioè, ho detto, qua è preso una cosa che è inaudita. Ho detto. Nieto. Nieto, cosa vuol dire nieto? Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, per favore.